Dunque, allora adesso l'ultima lezione stamattina, Beneduce che salta qui perché forse c'entra e poi così oggi pomeriggio i discorsi sono più ariosi, amministrazione e Stato di diritto. Aspetti del germanesimo dei giuristi italiani alla fine del XIX secolo. Brevissimo. Prego, no, non brevissimo. Calma, tranquillo, sei tutto il tempo. Dobbiamo dare una martellata agli storici stamattina, cioè che vengano praticamente distrutti. Vengono ridotti a, capito, poltiglia gli storici, credono che la storia si possa fare senza far ricorso a questi strumenti tecnici. Avanti. Stamattina vorrei mettere in risalto alcuni aspetti particolarmente significativi della circolazione del pensiero tedesco nella cultura giuridica italiana alla fine dell'Ottocento. Circolazione che, dico subito, dette luogo a interpretazioni non sempre univoche, non sempre riconducibili a linee unitarie e comunque ad un lavoro di adattamento e di recezione che fu non di rado autonomo rispetto alle stesse, come dire, rispetto alle stesse fonti. E proprio perché non soltanto si rifletteva nei vari saperi, ma si piegava di volta in volta a quegli orientamenti, a quelle tematiche che, dall'interno degli stessi saperi emergevano e dunque problematizzavano questa circolazione. Ieri si diceva della forza conoscitiva, della forza teorica, della produttività teorica delle immagini e delle metafore. Ecco, se si volesse scegliere tra le metafore che circolano nella cultura giuridica e non solo giuridica alla fine dell'Ottocento, per descrivere, per fissare quello che è un fenomeno vistoso, e cioè lo Stato che interviene, è appunto l'immagine della complessità. Della complessità dell'organismo sociale, da un lato, e dall'altro però della realtà troppo semplice delle istituzioni statuali, attuali, e pertanto la necessità di adeguare la complessità alla complessità di questo organismo sociale, di adeguarla con la complessità delle istituzioni. È un'immagine, per esempio, che trovo in Boccardo nel 75, che è un economista, nel Giornale degli Economisti scriveva appunto che questa della complessità è una verità che dimenticano spesso coloro i quali vanno in cerca di istituzioni più semplici nel regime politico-amministrativo delle nazioni. E poi veniva fuori questa immagine, nello stesso testo di Boccardo, dell'Inghilterra, che riprenderò alla fine dell'intervento. L'Inghilterra era appunto il paese in cui quelle complicazioni erano portate ai loro estremi confini e la legislazione inglese, con un incessante lavoro di innesto e di assimilazione, andava continuamente modificandosi insieme alla società di cui esprimeva i bisogni. Tutto ciò provava, cito di nuovo da Boccardo, che di tutti i sistemi politici il solo suscettibile di relativa perfezione è precisamente il sistema più complicato. Questa immagine della complessità tornava in Vito Cusumano, un altro portavoce e portatore delle idee tedesche della nuova scuola storica dell'economia, che proprio in quegli anni, nel 75, pubblicava un libro sulle scuole economiche della Germania e la questione sociale, in cui appunto veniva affiancato alla scuola di Smith, alla scuola libero scambista di Smith, le concezioni di Kant e di Humboldt, veniva fatta una similitudine e si diceva pertanto che gli individui nella concezione di Smith, nella concezione di Kant, vi era una coincidenza tra l'atomismo degli individui e l'atomismo dello Stato. Stessa immagine torna in Carlo Francesco Ferraris, però spostata questa volta sul piano delle discipline, per così dire prodotto, frutto di questa arbitraria semplificazione delle istituzioni era stata corrispondeva al diritto amministrativo e diritto amministrativo alla francese, che pertanto non riusciva a dar conto, non riusciva a tenere dietro a tutti, cito da Ferraris, a tutti gli oggetti, a tutte le materie della pubblica amministrazione. E veniva opposto al diritto amministrativo questa scienza, della, questa scienza dell'amministrazione che appunto doveva essere capace di prendere una considerazione specifica l'oggetto nuovo, che era l'oggetto amministrativo. Infatti, quella che dicevo, l'immagine, la metafora della complessità, che poi dopo dico è possibile ritrovare fino a Santi Romano, nella nota prolusione del 9-10, in cui egli oppone, individua nella crisi, tra le cause della crisi dello Stato moderno, proprio questo suo essere eccessivamente semplice, e cioè insufficiente, cito da Santi Romano, di fronte al risorgere di tendenze corporative a base professionale che sono il maggior fatto dell'età contemporanea, e tornava di nuovo, ripeto, questa immagine. Ecco, io credo che se è possibile ipotizzare che negli anni 80 e 90 questa metafora si raccogliesse, si in qualche modo confluisse intorno alla realtà dell'amministrazione. L'amministrazione, io ho l'impressione che negli anni, che alla fine dell'Ottocento, sia, come dire, una realtà ancora da decifrare, una realtà, ancora un problema, una questione aperta. In qualche modo una avevo scritto una realtà, un territorio ancora in via di annessione da parte dei vari saperi, da parte delle varie discipline. Ecco, tra l'altro chiedevo e ponevo questo problema se secondo voi, per quelli che, come dire, hanno seguito più direttamente le fonti tedesche, anche nel pensiero tedesco esistesse questa problematicità del concetto di amministrazione. Cioè se questa amministrazione avesse in sé degli elementi contraddittori dal punto di vista concettuale e, come dire, giustificasse questo suo star sospeso tra una definizione giuridico-dogmatica e una definizione politico-sociale, per così dire, e semplificando molto. Tanto è vero che io ho, così se volete in maniera un po' arbitraria, ma semplificativa, isolato alcune nozioni di amministrazione che ho ritrovato in questi autori di fine Ottocento. E così, anche un po' forzando, ho voluto mettere a confronto, per esempio, la definizione che di amministrazione dà Carlo Francesco Ferraris, da un lato, o autori come Bacchelli, la nozione che dà, per esempio, Orlando nei principi di diritto amministrativo del 91. Per Ferraris, l'amministrazione, cito da Ferraris, errore fondamentale nella nostra disciplina, la disciplina di Ferraris è la scienza dell'amministrazione, sarebbe prendere la parola amministrazione nel senso giuridico di sola esecuzione della legge, mentre invece in senso politico amministrazione è sinonimo di intervento dello Stato. Voi con la sola legge, voi con i soli organi esecutivi, voi infine con la legge e con gli organi esecutivi contemporaneamente. Doveva scomparire in questo concetto di amministrazione l'idea del potere esecutivo, isolato in sé, e, cito ancora da Ferrari, se si scorge così come la scienza dell'amministrazione non solo possa, ma debba fare astrazione dalla forma dello Stato. Per essa la forma dello Stato è l'accessorio, l'essenziale è la sua azione, l'azione amministrativa, appunto. Laddove invece in questa nozione di amministrazione che rapidamente riporto di Orlando, l'amministrazione può essere attuazione della sovranità dello Stato, può essere mezzo al fine della tutela del diritto. E per Orlando il fine principale dello Stato era la conservazione del diritto. Ecco, solo in tal caso, essenzialmente giuridico ne era il contenuto, e solo in tal caso esso poteva essere oggetto del diritto amministrativo. Ma quando l'amministrazione si applica alla tutela economica, alla cura fisica degli individui, al loro sviluppo intellettuale, il presupposto della sua azione è non più lo Stato, ma bensì la società, che non è un organismo giuridico. Ecco, questa come dire, differenza di nozioni relative all'amministrazione è appunto in parte, secondo me, ma questa è un'ipotesi da verificare, dovuta anche a quella circolazione del pensiero tedesco che dicevo contraddittoria e che dicevo non riconducibile a linee univoche, a linee unitarie. C'è un concetto che va richiamato immediatamente ed è quello, ed è come dire, la vicenda concettuale, la vicenda della circolazione del concetto di Stato di diritto in Italia, del Rechtsstaat secondo Otto Behr e secondo Neist. Bisogna dire subito, richiamare subito la fonte, il tramite di questa interpretazione, che è Attilio Brunialti, il quale dirigeva appunto la serie di la Biblioteca di Scienze Politiche e Amministrative, prima Biblioteca di Scienze Politiche e poi divenuta Biblioteca di Scienze Politiche e Amministrative, e pubblicò lungo l'arco degli anni 90 una serie di volumi dedicati proprio alle traduzioni, alle interpretazioni del pensiero tedesco. Nel volume che ho tenuto presente io, veniva tradotto uno scritto di Behr del 64, Lo Stato di diritto, uno schizzo pubblicistico, e veniva tradotto da Oliviero Olivieri e da Isacco Artom, riprodotta la traduzione che già era avvenuta nell'85 di appunto da parte di Isacco Artom del lavoro di Neist, Lo Stato di diritto e la giustizia nell'amministrazione in Germania. Ecco, se io ho avuto l'impressione che questa nozione di Stato di diritto conserva una sua problematicità e una sua complessità anche nella circolazione in Italia. Il fatto che Olivieri e Isacco Artom, per esempio, discutano sullo stesso termine da tradurre, da rendere in italiano, come Stato secondo il diritto, come Stato giuridico, è un indizio in questo senso. Ma un indizio ancora più importante è che poi, per esempio, da autori come Orlando, o da autori diversi, io ricorderò rapidamente Domenico Giura in un testo del 96 e Orlando poi in un testo precedente del 91, nei principi nel primo trattato completo di diritto amministrativo del 900, ecco, questa nozione di Stato di diritto ha una serie di prende una serie di strade diverse. Per esempio, per Domenico Giura, lo Stato di diritto, questa teoria dello Stato di diritto, non era utilizzabile per come dire, costruire un'azione, costruire una scienza che definisse la missione dello Stato. Per Orlando, invece, notava già nella scienza tedesca una grande nebulosità della nozione, usava questo termine, la nozione era già nebulosa nella scienza tedesca e osservava come l'opera di Neist, intitolata precisamente Lo Stato di diritto, e che è certamente una delle opere più profondamente meditate della cultura giuridica, non determina una nozione giuridica dello Stato, né dice mai chiaramente ciò che si intenda per Stato giuridico. Orlando riconosceva dunque che questa nozione si era in qualche modo aveva abbracciato varie scuole e tendenze e che però si trattava di riprenderla da un suo punto di vista puramente giuridico. Per Orlando lo Stato di diritto corrispondeva al problema della giustizia nell'amministrazione. Si trattava di fermarsi senz'altro sulla concezione per cui nella nozione di Stato la monade costitutiva di esso è l'individuo. Abbiamo così due soggetti di fronte, lo Stato da un lato, l'individuo dall'altro. E il problema era quello della costruzione di una serie di garanzie e di presidi a favore di quella che Orlando chiamava suggestivamente la difesa individuale dallo Stato. Era dunque questo il problema specifico cui, secondo Orlando, cui la teoria del Rechtsstaat intendeva rispondere. Se pensiamo che negli stessi anni, negli anni Ottanta, anche Spaventa, in fondo Orlando riprendeva il tema di Spaventa, di Silvio Spaventa, sulla giustizia nell'amministrazione, che Spaventa leggeva in questa stessa chiave il concetto di Rechtsstaat. Ecco, vorrei osservare soltanto che questo problema della giustizia nell'amministrazione poi in fondo si poneva tra due, come dire, tra la legge del 65 che affidava alle autorità, alla giurisdizione ordinaria, la difesa in uno dei primi articoli, la difesa delle posizioni dei singoli nei confronti dell'azione amministrativa dello Stato, e poi lasciava alla discrezionalità dell'autorità amministrativa tutta una serie di materie non tassativamente stabilite. L'azione invece di Spaventa e poi di Orlando porterà nell'89 alla creazione di una giurisdizione amministrativa, cioè di una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato che in qualche modo superava i problemi lasciati irrisolti dalla legislazione del 65, e cioè il Consiglio di Stato veniva creato una sezione giurisdizionale davanti al quale il cittadino poteva, leso dall'azione amministrativa dello Stato, poteva essere garantito nella lesione delle proprie posizioni giuridiche. Ecco, ma io credo che il punto più interessante poi in fondo di questa circolazione è questa discussione intorno al modello Inghilterra, che nel corso degli anni 80 e 90 viene fuori grazie anche alla conoscenza dei lavori di Nyst e sulla struttura costituzionale e amministrativa di questo paese. Diciamo subito che per Nyst due erano i punti d'appoggio dello Stato di diritto. Uno era la monarchia ereditaria, la quale personificava l'idea stessa di Stato, rappresentava la continuità della tradizione giuridica e politica dello Stato e assicurava, come dire, nel momento culminante della formazione della legge, assicurava a questa formazione e la sottraeva, scriveva Olivieri, che appunto introduceva Gneist, la sottraeva a tutte le passioni della società e la elevava sopra tutte le antitesi e gli urti del mondo sociale. L'altro elemento su cui poggia lo Stato di diritto per Gneist, e dunque un elemento interno allo Stato di diritto stesso, era il decentramento. Quello che per Nyst era il self-government, e che appunto l'Artom, che traduceva e introduceva il lavoro di Nyst, ricordava come Nyst avesse chiamato il self-government das Gerüste, l'impalcatura, la sostruzione fondamentale del regime parlamentare. Ecco, assistiamo qui, forse adesso si spiega meglio, spero, quella richiamo che ho fatto alla giustizia nell'amministrazione, qui assistiamo ad una operazione riduttiva del pensiero di Nyst, e cioè viene messo in qualche modo in alternativa il rimedio, quello che Olivieri chiamerà il rimedio del decentramento, al rimedio della giustizia amministrativa. Scriveva Olivieri, è però ben dimostrato di meglio a che cosa? All'amministrazione partigiana, all'amministrazione, all'ingerenza dei partiti nell'amministrazione, c'è tutta quella letteratura di Turiello, di Minghetti su questo punto. E scriveva Olivieri, è però ben dimostrato che non ci siano altri rimedi, si chiedeva, è però ben dimostrato che non ci siano altri rimedi. Nel memorabile discorso dello Spaventa a Bergamo, questo illustre maestro, insieme alla mancanza di una vera e propria giurisdizione amministrativa, diceva che le cause dell'ingiustizia nell'amministrazione sono due altre: il difetto e l'incertezza di norme giuridiche, il difetto di responsabilità degli ufficiali pubblici. Non è ancora dimostrato che quando ci siano delle leggi e delle istituzioni amministrative ordinate in modo da raggiungere questi tre scopi, debba ancora ricorrersi al rimedio del self-government. Ecco, dunque, il tema del self-government, che rappresentava per Nice uno dei punti interni, uno dei punti importanti d'appoggio della teoria dello Stato di diritto, veniva non solo distaccato da essa, ma in qualche modo, cioè dal corpo della sua riflessione, ma in qualche modo, io credo, ci si precludeva anche una, e non da tutti gli autori italiani, come dimostrerò, una conoscenza effettiva della situazione e inglese. Bisogna dire che nel corso della vicenda unitaria, questo richiamo all'Inghilterra era stato costante, trovando l'apprezzamento di quanti all'interno del Partito Moderato e fautori di un decentramento spesso genericamente formulato aderivano al principio familiare del self-government, dell'autogoverno locale, fonte di stabilità e di libertà, nonostante poi la scelta cadesse su un sistema diverso, su un sistema accentrato. Ora, è importante osservare che nei decenni che seguono l'unità, il riferimento alla patria delle libertà locali, secondo l'espressione di Ferraris, si viene complicando e precisando, e addirittura cambia di segno. La circostanza più rilevante è che la conoscenza del sistema costituzionale amministrativo inglese si approfondisce, rivelando aspetti nuovi e contrastanti con certezze ormai acquisite, proprio grazie, da un lato, alla diffusione di autori come Nice, ma anche a questa circolazione più avvertita del pensiero di Nice, che per esempio in un autore come Attilio Brunialti gli consente di criticare anche alcune formulazioni che aveva espresso Nice. Infatti Brunialti osservava come, mentre il continente contemplava le autonomie e il decentramento inglese, in realtà quello Stato modificava sostanzialmente i propri ordinamenti. E in nessun altro paese come in Inghilterra si era proceduto, cito da Brunialti, con maggiore risolutezza, senza badare alle tradizioni più sacre, scrollando non solo i pretesi fondamenti della Costituzione, ma quei principi stessi del diritto civile che a noi, dominati come non furono mai gli inglesi dalla rigidità del diritto romano, sembrano altrettanti articoli di fede. Ecco, dunque, c'è questo punto da osservare, che Brunialti tornerà poi in un altro volume della Biblioteca di Scienze Politiche Amministrative, quello appunto che raccoglieva lo scritto di Nice sull'amministrazione e il diritto amministrativo inglese, e Brunialti premetteva a questo saggio di Nice un saggio dal titolo Il diritto pubblico inglese e la sua trasformazione, tornava su questa questione. Per Brunialti, appunto, ancora una volta, mentre si stava sul continente ammirando l'autogoverno inglese, la partecipazione attiva delle classi al governo e all'amministrazione, l'Inghilterra in realtà riformava i suoi ordinamenti, toglieva alla Costituzione e all'amministrazione i fondamenti antichissimi, cedeva alla democrazia imperante, si accostava alle istituzioni del continente, con un nuovo accentramento di poteri, lo chiama nuovo accentramento, con semplificazioni ed equiparazioni continue. Quindi una sorta di procedimento inverso, per cui era questa volta l'Inghilterra ad accostarsi però in maniera nuova alle istituzioni continentali. Ecco, quindi Brunialti, a mio avviso, intendeva avvertire il lettore italiano che se da un lato l'opera di Nice costituiva una fonte importante di notizie e di analisi sulla vicenda costituzionale inglese, era necessario tener conto al tempo stesso di mutamenti rilevanti che l'autore tedesco non aveva sempre registrati, avvenuti intanto all'interno delle sue istituzioni, e tutto ciò obbligava l'osservatore a modificare di nuovo il giudizio e la conoscenza di quel paese. E anche qui appunto chiedo coloro che si sono occupati più direttamente di NAIST, di così, delle conferme rispetto a questo punto. L'Inghilterra, osservava Brunialti, e sto avviandomi rapidamente alla fine, possedeva ora una doppia rete di circoscrizioni locali. Pertanto alle parrocchie, alle contee, ai borghi municipali, si era via via formata, si era affiancata via via una nuova rete di circoscrizioni intermedie, e questi erano i distretti, le unioni di parrocchie, che erano appunto i comuni rurali, i distretti stradali, i distretti scolastici e così via. La stessa, prima Tommasi aveva citato il giudice di pace, bene, la stessa istituzione tradizionale del giudice di pace, che come dire, riuniva in sé la funzione di amministratore e di giudice al tempo stesso, ed era di nomina centrale, del potere centrale, al giudice di pace fu lasciato soltanto l'ufficio di giudice, e gli altri compiti amministrativi furono attribuiti ad un consiglio elettivo. Come dire, la controprova di questa attenzione maggiore al modello Inghilterra, che questa volta non significava più soltanto decentramento, come dire, opponendolo in maniera semplicistica e semplificata al vecchio accentramento, era il fatto che Brunialti, nello stesso volume, pubblicava poi uno scritto di Maurice Vautier sul governo locale e l'Inghilterra, perché secondo Brunialti, appunto, Vautier si ispirava a meno fosche previsioni, e perciò anche stimammo opportuno pubblicare Vautier a complemento di quelli di NAIST. Come l'autore tedesco, altri ammirano l'antica Costituzione inglese, ma non credono che la sua trasformazione possa quasi colpire a morte l'Inghilterra, meglio apprezzando le sue forze e le sue riserve sociali. Quindi, ecco, io credo che in fondo come dire, attenzione di Brunialti alle modifiche del avvenute in Inghilterra, non erano, come dire, improvvise, sorprendenti, perché già autori come Ferraris e poi anche Santi Romano, come dire, riproducevano questa operazione. E io voglio ricordare soltanto un testo di Santi Romano, che è del 98, sul decentramento amministrativo, in cui appunto Santi Romano avvertiva che il problema del decentramento è un problema proprio dello Stato moderno. È impossibile opporre a decentramento a Stato moderno. Si trattava invece di riconoscere che l'amministrazione pubblica, proprio per questa sua grande complessità, era costretta per cui era costretta a non tener conto degli interessi parziali di questa o di quella parte del territorio. Ecco, era necessario affiancare, si sentiva il bisogno del decentramento per assicurare una giusta difesa ed un'equa rappresentanza a questi interessi parziali. Questa, ma ancora come ultima notazione, vorrei osservare come poi in fondo lo stesso pensiero di Gneist ancora una volta giocasse in maniera risolutiva nella discussione sul decentramento. E cioè questo richiamo alla fonte tedesca è un richiamo che consente che gioca a favore dell'uno o dell'altro nelle tesi appunto che venivano espresse sul decentramento in Italia. Ecco, per esempio, Ferraris consente, tra l'altro, con Santi Romano, in questa sostituzione del termine autonomia con il termine autarchia. Autarchia per Santi Romano per Ferraris rendeva meglio di tutti giustizia ai termini inglesi self-government e al self-verwaltung dei tedeschi, fino a quel momento resi in maniera ibrida da termini come autogoverno e autoamministrazione. Quindi Io credo che, ecco, semplificando, che credo che la circolazione del pensiero di Nice sia stata una circolazione non soltanto diretta, ma sia passata attraverso questi autori che ho citato brevemente, attraverso Brunialti, anche, ma attraverso anche Ferraris, una circolazione più avvertita e che appunto abbia giocato poi un ruolo centrale in questa, come dire, riscoperta del modello Inghilterra, in maniera però aggiornata e non più da porre in rapporto di opposizione o di conflittualità con lo Stato moderno, con lo Stato complesso, con lo Stato che interviene nella società. Grazie molto. Ci sono domande specifiche di chiarimento? Esatto. Io vorrei sapere tutti citazioni precise, perché quello studio mi interessa molto. Lui lo pubblicherà. In Inghilterra ho studiato un anno e ho trovato, come Brunialti, che l'idea del self-government è una fissazione del Daesh, che non esiste in Inghilterra, non ne sanno neanche la parola.